Oggi 16 giugno in Sudafrica si festeggia la festa della gioventù. Perché questa data? Perché il 16 giugno del 1976, tra le numerose vittime degli scontri di Soweto, persero la vita due piccoli studenti, Hastings Dolwy di 15 anni e Hector Peterson di 13 anni. È lui il protagonista della foto simbolo di quelle proteste scattate da Sam Nzima. Ritrae Antoinette Sitole che corre disperata vicino al corpo gracile di suo fratello Hector, tenuto tra le braccia di un uomo, Mumbisi Amakubo. È piuttosto difficile reggere a lungo lo sguardo su questa foto. Mumbisi Amakubo ebbe problemi dopo quello scatto perché molti bianchi poterono riconoscerlo e perseguitarlo, e dopo poco scappò in Nigeria facendo perdere le sue tracce. Si parlò ancora di lui quando nel 2013 in Canada un uomo di nome Victor Winnetou, incarcerato da 8 anni per reato di immigrazione clandestina, disse di essere Mumbisi Amakubo. Un esame del DNA, secondo alcuni però fatto in modo sommario, non ha confermato questa affermazione. I due piccoli studenti, Hosting e Hector, non sono i soli ad essere stati colpiti da proiettili della polizia, e Mumbisi e Antoinette non erano gli unici a scappare quel giorno. A Soweto erano migliaia le persone con la pelle nera che protestavano. Fonti governative parlano di 23 morti durante gli scontri, ma si ritiene più verosimile un numero di vittime tra i 176 e i 700. E a questi vanno aggiunte oltre 1000 feriti. Torniamo alla foto e a dove è stata scattata. Soweto è un'enorme area abitata fuori da Johannesburg. Pare che i primi insediamenti nell'area siano iniziati a comparire intorno al 1886 per via dei lavoratori che arrivavano lì da altri stati africani, da stati europei e dall'India. Lì aveva aperto una grande miniera d'oro, una miniera vera di quelle che scavi sottoterra e trovi l'oro. E il 1886 è un anno particolare perché si trova a cavallo delle due guerre boere, ovvero quando inglesi e coloni nord-europei che stavano lì in quell'area dal 1700, chiamati boeri appunto, iniziarono a darsele di santa ragione pensando proprio alla quantità di oro e diamanti nascosti sottoterra e alle bellissime e floride terre di quell'area geografica. Una sorta di paradiso terrestre. I boeri, in modo non molto diverso dall'epopea del Far West, trovarono lì l'oro Eldorado e trovarono anche popolazioni pacifiche, facili da sottomettere e da usare come schiavi. Col tempo si creò anche una lingua nuova, l'Afrikaans, una lingua che oggi si trova anche sul Google Translate. Afrikaans significa qualcosa tipo olandese d'Africa ed è un miscuglio di dialetti e lingue germaniche. Se la sono menate di santa ragione inglesi e boeri, e con la seconda guerra boera che è iniziata nel 1900 arrivarono anche personaggi illustri. Gandhi, per esempio, e si deve a quel periodo le controverse affermazioni razziste a lui attribuite sulle persone con la pelle nera, e che di recente hanno fatto sì che in Ghana una sua statua commemorativa venisse danneggiata. Dopo un bel po' di tempo fonti ufficiali dicono che Gandhi si accorse che gli indiani con la pelle non bianca venivano trattati male quanto i neri. Colore del genere razziale che durante l'apartheid veniva attribuito agli indiani e ai mulatti, e anche per loro allo stesso modo veniva negato ogni diritto. In quegli anni c'era lì anche Winston Churchill, aveva 26 anni e faceva il giornalista per il governo inglese. C'era Peppino Garibaldi, nipote del famoso Giuseppe, che combatteva al fianco degli inglesi, ed era lì assieme a un folto numero di pionieri italiani interessati anche loro a quel pezzetto di paradiso. Con la seconda guerra boera ebbero la meglio gli inglesi. Militarmente erano più preparati, organizzati e meglio equipaggiati. I boeri tentarono una guerriglia armata non molto efficace. Andavano a combattere con abiti da lavoro e con armi un po' antiquate. Gli inglesi ebbero la meglio anche grazie a una straordinaria intuizione che è destinata a trovare fortuna qualche anno più tardi: i campi di concentramento. In questi campi trovarono la morte circa 26.000 persone, tra donne e bambini, boeri e neri, e l'idea fu del grande condottiero Lord Horatio Herbert Kitchener, che per contrastare la guerriglia dei suoi avversari fece bruciare e radere al suolo fattorie, bestiame e ogni altra forma di sostentamento per i guerriglieri, inclusa la popolazione civile inerme che poteva offrire loro riparo. A questo sanguinolento personaggio sono dedicate una città negli Stati Uniti e un isolotto sul Nilo, che proprio grazie a lui oggi ospita uno dei più bei giardini botanici del mondo. Si deve a questo strano personaggio anche un'altra grande invenzione, un punto di cucito detto proprio Kitchener. Serviva a rendere le calze molto più confortevoli per i soldati britannici perché faceva sparire la cucitura di chiusura. Era un vero appassionato di lavori a maglia, lo faceva anche nei momenti di relax tra una battaglia e l'altra. Queste passioni gli valsero poi la nomea di uomo non proprio virile, ecco, e dedito a usi sessuali sconvenienti per l'epoca. In questi campi di concentramento la gente moriva come mosche perché non avevano un'alimentazione sufficiente. Ben presto fecero la loro comparsa anche morbillo e peste, che decimarono ulteriormente le persone all'interno di questi campi. Passarono gli anni, la guerra finì e le sfumature tra inglesi e boeri si attenuarono e si marcò la differenza tra bianchi e neri. Soweto è un acronimo, sta per Southwest Townships. Il nome fu scelto con un concorso tra la popolazione e fu usato per la prima volta nel 1963, ma l'agglomerato urbano esisteva già dagli anni 30, grazie ad una legge del 1923 che diceva che bianchi e neri dovevano stare separati da una sorta di cordone sanitario, che poteva essere un fiume, un'autostrada, un'area industriale e qualcos'altro che garantisse la separazione razziale tra persone con la pelle di colore diverso. Non saprei come tradurre il termine township, è qualcosa che non è una vera e propria città, forse. Fino al 1976 potevano restare lì solo residenti temporanei che garantivano forza lavoro per Johannesburg. Nel 1976 in tutta Soweto, che è comunque uno dei più grandi agglomerati urbani del Sudafrica, c'erano solo due cinema, due alberghi e solo una casa su cinque aveva la corrente elettrica. Molti abitanti di Soweto usavano ancora il fuoco per riscaldarsi e per cucinare, non c'era nessun allaccio fognario ovviamente o rete stradale moderna. E a causa della mancanza di igiene e di riscaldamento il tasso di mortalità infantile a Soweto era oltre il triplo di quello di Johannesburg. Fu in quell'anno che scoppiarono le rivolte. Il governo emana una legge che rende la lingua Afrikaans lingua ufficiale assieme all'inglese, obbligatoria anche nelle scuole. La motivazione di questa legge, beh, è facile da spiegare. Se un nero riceve un ordine in Afrikaans, deve essere in grado di poterlo capire. Questo fu il detonatore che accese le proteste in tutta l'area. Le proteste per l'ennesimo tentativo di cancellare la cultura e la dignità delle popolazioni locali. Il vescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace nel 1984, prese parte alle proteste. In quell'anno furono boicottate le Olimpiadi e i riflettori del mondo si accesero sul Sudafrica e l'apartheid. Il processo di cambiamento del paese, che ha raggiunto il culmine negli anni 90, è iniziato da lì, da quelle proteste. Vicino alla casa di Nelson Mandela, a Soweto, c'è un mausoleo che ricorda il piccolo martire Hector Peterson. Certo, la strada è ancora lunga se pensiamo che nel 2006 il 70% delle proprietà terriere era posseduto da bianchi. E la strada è ancora lunga se pensiamo che quasi 10 anni dopo quegli scontri di Soweto, dal Sudafrica arrivò in Italia Jerry Hassan Maslow. La sua vita e la sua triste morte segnarono uno spartiacque nella politica di accoglienza e nei rifugiati del nostro paese. Ed è triste purtroppo constatare che come allora, anche oggi nel 2020, continuano a morire schiavi neri nei campi. Ed è triste anche constatare che qualcuno come il generale Kitchener passa il tempo a fare la calza per difendere un uomo bianco colonialista che comprò e abusò una bambina di 12 anni negli anni 30. Nel 2000 a Milano c'è una statua che ritrae questa persona proprio all'ingresso dei giardini pubblici che pure portano il suo nome. Ed è il segno che probabilmente la memoria va ricucita in modo diverso